come si dice? K. Tutto bene, tutto bene. Tutto ok quindi, là? Sì. Grosso modo tutto bene. Domani andiamo a piazzare sta basculante, vediamo un po' cosa dice a culo. Stai facendo lavori prefattituri? Sì, lavori prefatti. Anche lavoro già riuscito, non male, ce l'ho facciamo. Per il resto sei speciale quindi? Sì, ho fatto la domanda per la speciale, adesso dovrei attendere un paio di mesi per mandarmi quei soldini, speriamo bene. Ti senti completamente fermo, non ci picchiamo. Sì, completamente fermo, abbiamo finito lì, fermi. Adesso vediamo se si sblocca anche un po' il lavoro. Vabbè, già si sbloccherà, beh, un po' di fiducia, il mese di gennaio è un po' triste per tutti, siamo pagamenti, un sacco di cose, inizio l'anno è sempre così, però poi alla fine già si sblocca tutto. Sì, beh, bisogna avere fiducia, se no guai. Fiducia, e allora, io vado a Bari, mi salvo un po' questa speciale qua. Me ne pagano 8 mesi, capito? Solo te le danno rateizzate, e vabbè, già va bene. Va bene, sì. E Luca ancora giocando a carte, sta? Non lo so. No, io mi sono un po' staccato, il PC acceso, però c'è mia moglie che sta controllando, e niente, mi chiedo nel salone, mi stavo scrivendo un po' di cartacce per domani, però così con la luce accesa andavano agli occhi, gli occhiali, e quindi niente, non vado domani, se ho 5 minuti mi siedo e completo. Per il resto tutto bene, siamo un po', non ci sentiamo. E diciamo tutto bene, un po' di mortuglio, una frequenza, ogni tanto entra Sandrino, ogni tanto entra anche Pinocchetto, adesso facciamo quei 10 minuti di chiacchieratina, dai, non ho più sentito già di capre due, non so cosa ne sia successo, non saprei dubbio, non ho più sentito. Beh, io neanche, perché qua era sempre tutto spento, oppure se è acceso, magari sto facendo altro, non posso entrare, comunque, importante anche 10 minuti, sentirsi, scambiare due chiacchiere, due opinioni, e farci ammaccare un po' il tempo. Non è meglio la domenica, no? Io non esco durante la settimana, perché sono sempre a lavoro. Ieri, lo stesso, non sono uscito, immaginate la domenica, che pure ne devo fare questo. Avevo deciso ieri, come ti ho detto, di uscire, invece mi hanno incasinato il lavoro. Perciò sono dovuto immediatamente, non sono neanche rientrato. Nella attesa, sono passato a Chiaramonte, mi sono fermato lì. Sono questi lavori. E niente, sono entrato alle 4, un'ora e mezza, forse perché sono andato alle punti a mettere la macchina, a mettere in moto la mia è sempre ferma, la smart lì in garage da un dirigente, perché mi ho preso la macchina lì, non ho tempo, figurati, di andare in due persone, prendere la mia e metterla in garage da me, ma siccome non aveva fastidio, l'ho lasciata lì. E quindi niente, tutto così procede, tutto a passo lombrato. Tutto a passo lombrato, piano piano, si metteranno a posto le cose, eh. Purtroppo è un lavoro molto, molto impegnativo, capisce? Quella oretta che hai e vuoi proprio dedicare alla famiglia, giustamente, perché la famiglia fa parte di tutto, poi incombe anche la stanchezza, incombe tante cose, è ovvio che poi la radio si lascia un po' a desiderare, diciamo, dai. Claudio. Ciao Giuseppe. Più vita l'hai, il portasfiga non è più sentito, no? No, fortunatamente no, perché sta procedendo tutto bene, no? passare con la macchina, mi sono guidato, chi ci mi vedi, entra dentro l'impianto, invece l'autostrutto che vuole surpone. Ma quale sta visto? E mi sono girato, c'avevo l'autostrutto di lato, non mi ha visto sicuramente, non mi ha riconosciuto, ma visto c'era gente, non mi ha riconosciuto, quindi ha tirato dritto, dice no, è un casino, invece l'autospurgo e la nave cisterna baffa la metà in pianto la buia. Falchetto era preoccupato che non si sentiva più cosa del sindaco di Bloaghe, se n'è innamorato. Guarda, non lo posso dire però perché è una cosa troppo triste da dire, ma triste veramente. E mi vergogno a dirla, però non so se avete saputo, ma molto non volevo le nuvoli, carissimo amico. Io ho un sacco di foto con lui, fatte ad arte. Ma c'è una cosa che guarda, non posso dire perché è una cosa veramente che non uso. Vabbè, là, non c'è problema. Falchetto! Sì, Giuseppe, un attimo. L'ho sentito. L'ho sentito, ho letto anche nel giornale. Ma cos'è? Stava male, era malato. Tu sei venuto l'anno scorso guardando la partita o ieri, stava giocando ieri Arbera e se l'ha portato, sembrava che stava migliorando, invece si è fallato un altro e quindi niente. No, ma la cosa così che rimango un po' veramente è che è andato a trovarlo lui, capito? E si conoscono sulla sua partita eccetera. Io l'ho visto l'ultima volta che abbiamo fatto l'Arda, quando siamo a gennaio mi pare, e a metà novembre, la seconda partita, la terza partita abbiamo fatto l'Arda, sono andato a farlo, insomma, e posso dire che sì, stava male, però no, non era in fase di ripresa sicuramente, però così è andato a chiede là, ma si arriva nel buio. Oh, Sonia, ma a me è una cosa allucinante. Una cosa allucinante veramente. Una cosa allucinante veramente. E vabbè, chiudiamola qua. Ma sono andato ieri. Non sono potuto andare direttamente al funerale, ma sono andato alla camera mortuaria prima che lo chiudessero, proprio vestito a lavoro in fretta, salutare un po' di persone, e lui ancora non c'era, era già ad Arbera che aspettava il corteo funebre. Vabbè, ok, va bene. Stavi dicendo, Giuseppe? No, stavo dicendo così, niente di particolare, ho detto che Falchetto, cazzo, se n'è innamorato del sindaco di Bloaghe, lo vorrebbe conoscere, dunque, ho detto a tu, ti prendo e ce ne va a Bloaghe, andiamo a trovare il sindaco, cazzo, se l'ha mai risposto, vai a matta di due e tu. Io già lo conosco Antonio, ma la difficoltà di incontrarlo, capito? Ma vabbè, ma quella persona è sempre libera, no? È libera, ma si è fatto le mesce, cos'è che è buona, Giuseppe? Cos'è? Non ho capito. Ha fatto le mesce, si è tinto i peli, si è tinto i capelli, capito? Si è fatta bionda, color sole, cazzo, di buona era. Cazzo, ma sono al pensiero, cazzo, mi sa, non mi fa far ridere, sono contagiato anche a Falchetto, padre è morto di lì, capito, quindi chi comanda tutto è lo zio, perciò sbagliato il sindaco, se vuoi a Eta. La mani vecchia, attennati. Cazzo. E lui mi dà delle brutte mie cazzo dove sono. Oh no, no, faccio perdere che io non ne voglio di corone per i fiori, non ne voglio. Vabbè, sono delle scelte che uno fa. Io se non avessi avuto necessità sicuramente mi sarei abbassato, poi avrei messo le mutande al rovescio, capite? Quando avevi stretto la mano avevi posto un coso di gorrega, che cosa, però mi sarei abbassato. Cattolo in tasca, cattolo l'aglio, peperoncino e qualche ferro di cavallo. Non dimmi tu l'aglio, no? Non dimmi l'aglio, chi come ti dà vicino, lo viaggio che va in bocca, ti ammazza la zizzola. Cazzo, come si fa lui? Cazzo, ma con le tasche che si avvicina, cazzo, dove faccia lui? Cazzo, lo cresce erba. Non c'è problema, lui non ha tanta dire da casa sua perché dorme a pancia in alto e quando ce lo raggheggia la zizzola la morì subito. Cazzo, nel trattare le mosche, un cazzo c'è lontano, le zizzola, aria bassa e c'è lontano, mai. E così è, ciao lei, così è, così è. Di questi problemi non è altro più, stai pur certo, ma la vettura è una cosa allucinante, quando si boccia in macchina, ragazzi, che si muove a buffare, si appanna la finza che rivedere. Ciao Luca. Ciao Luca. Come si dice? Deve azionare l'aria condizionata per fare dei vetri, no? O no? Ah, che ti vuoi fare idraulico? Lo hai venduto già? No, già ce l'ho, è 3,20. 3,20, Paolo idraulico, ci vuole la manovella e mettere l'olio. Oh, yeah. dolor, una mujer en el armario, qué dolor, qué dolor. E vabbè, ma che l'ho paga fatta? Vabbè, sono qui, siamo rimediati, cazzo. Pagato, no, non ci posso più, eh. Queste sono cose che bisogna pagare ogni anno. Io non voglio gelosia. C'ho un baracchino, quella da radiomotore, e poi c'è anche la Tassari che è 72 euro solo quella. Più 5 la licenza del radiomotore. Abbiamo la vagonia lì, la radiomotore è di pagare 12 euro per la concessione del baracchino. Allucinante, invece di essere al contrario. Si paga di più per il baracchino o per le... Il baracchino si paga di più, io pago 5 euro all'anno per la tassa di concessione governativa per la licenza del radiomotore. 5 euro. Invece che il baracchino gli paga 12. Quindi sono 17 solo per la radio. In più 72 euro per il rinnovo di associazione, fate un conto, ogni anno voi siete voi che cattivi dai. Sono tanti, poi paghi su, paghi sui figli là. Vabbè, ma quello si sente pure qua, per carità, cioè che si vede, ma sono portanti, almeno ci fosse stato un controllo, non so. Ma c'è una bella nuda. Lo so. Dunque lo so. Purtroppo lo so. Però il fatto è che io non commento più queste cose, non mi interessa. Dicevo anche a questo mio amico al PC poc'anzi, io non commento più niente, non mi interessa. Se si possono fare due chiacchiere con gli amici mi fa piacere, se non si possono fare partenza si rimane ad ascoltare oppure si fa tutto qua. Intanto è inutile stare a dire sempre le stesse cose, a beneficiare con la gente, non vale più la pena. Ognuno parla con chi vuole, fa quello che vuole, giustamente siamo tutti liberi. Perciò è così, non mi ha fatto più nulla, ho altre cose a cui pensare, Luca, che stare lì a macchinare il dito con la radio, se si può fare un due chiacchiere si fanno, siamo pazienti. Vabbè, su qua sono d'accordo con te, se si può fare, ben venga, altrimenti si abbassano i volumi e buono, sta secchio, se dico, tanto. Io dico questo, queste persone qua che gusto ci prendono, allora sono pagati, ma fa il culo, non so, io non capisco che gusto ci prendono, no. Contenti loro, contenti tutti, vai Antu. Io salvare, tanto siamo lì alla battaglia a fare, ragazzi, quando se c'è la singola persona, si può modulare, si modula, se no si gira la mano bella e ciccia. Vai Giuseppe, facci sognare. Facci sognare, io da cazzo ti porto a sognare. Mi accadeva i 7 nani. Tu cantami la mia nanna. Eugenio, me la penso io sul fatto delle portate, no? Che io, figlio, non lo voglio sentire, figlio è tanto, è da voi, se non ci metto molto io, me l'ho preso. Appala, capitolo chiuso, pensiamo ad altro. E allora, Claudia, domani, grande trabacco. Ehi, altro se mi hai ricordato. Guarda, domani mattina alle 7:30 dove c'è l'ottava. Devo ritirare del materiale urgente al regolatore di ottava e partire immediatamente a Bonnamaro. Qui sicuramente dovrò fare un salto a Tiesi, perché c'ho le relazioni da prendermi. E poi da Tiesi devo andare a Oschi, Berchidda, Tula, poi da lì devo andare a Itiedu, Tiesi, sembrare tornare a essere salvo complicazioni, questo è l'arco delle sino a, alle 2, dalle 7 sino alle 1 e mezza, nell'arco delle ore lavorative, salvo complicazioni. Diversamente il programma può cambiare, dipende, dipende. Le marcine poco di chilometri, cavolo, ui, a per carità, neanche la buonasera di Cracovusco, mi ha due idee, ui, va bene che va bene, ci vuole la borra che ci vuole, è giusto che ci vuole, però cazzo, la mangiassi 13 chilometri, mi ha detto, ui, mamma mia. Tutti i giorni così, già hai visto, se è capitato tu quest'estate, eravamo qua e ha scurato il servizio dove siamo andati qui. Ormai ci sono abituato e che bisogna essere, Gesù Cristo mi lascia con questo ritmo, perché è un ritmo veramente allucinante. E poi soprattutto la responsabilità, le cose che fai devono essere tutte motivate. Perché c'è una tabella di marcia in macchina dove scrivo chilometri iniziali e chilometri finali. Quando parcheggio la macchina non mi cade manco di scritta più, infatti me ne provo un altro leggermente più grande di tabulato, perché io non riesco a inserire ciò che faccio durante il giorno in una riga, ci vuole almeno 3-4 righe, sono l'unico, perciò non sto scrivendo assolutamente niente. Metto la partenza e l'arrivo, il chilometro della macchina basta. Nonostante ce l'abbia anche oltre 8 le ore lavorative, mentre stamattina sono uscito con quella, perché la mia è ferma di punti qui. Non ho nessun problema, non è che devo dare conto a nessuno. Devo stare attento perché sono macchine da lavoro, quindi devo stare attento che non succeda niente dopo l'orario del lavoro, se no me ne assumo io le responsabilità, però tutto lì, tutto lì. Mi dispiace non stare facendo un cacchio. Noi roba idra non ne abbiamo, non ne abbiamo, posso chiedere giù a Porto Torres alla Turetta, loro fanno anche roba idra, se hanno qualche manutenzione qua a Sassari negli impianti o di trucco reale o di quella corrotto, se c'era qualcosa in movimento, ma non so che cosa. Ma nemmeno ti faccio sapere. Cappa, cappa. Già va bene così, tutto è buono, volesci, tutto è buono, qualcosa fammi sapere. Andiamo e operiamo subito, senza problemi. Vedi, se avessi fatto altro, fatto assumere, fatto il colloquio con la settimana scorsa, dopo l'epifania, fatto entrare un ragazzo qua di Sassari che mi ha telefonato, però è un elettricista, è un perito elettricista, un perito elettrotecnico, era fermo, aveva contratto a termine e non gli hanno rinnovato. Siccome lo conosco, so come lavora, avevo necessità nella mia zona di un elettricista, ho detto al mio dirigente, ho detto mandalo. Ha fatto quello che ha preso servizio lunedì scorso, un bravo ragazzo. Quando si può aiutare, si aiuta la gente, così va. Purtroppo questi guy. Già va bene, no, ma anche se senti lavori privati e compagnia bella, fa molto piacere, ecco, tutto lì. Buonasera. Buonasera, mi sembra mi c'è da c'è una campagna e praticamente mi ha detto da poco che vuole fare tutto a cemento armato, eliminare tutta la terra, gli alberi, fare tutto a cemento armato, te la senti? Sì, a voglia. Ok. Ciao Paolo, ciao Falchetto. Ma diciamo che tu già ci sei fatto giù da fare vicere, soltanto che la materia prima è quella che è, quindi qualche idea ci sarebbe, però logicamente tempo al tempo e piano piano, di questi tempi non è che si possa fare il passo più grande con la gamba, e quindi bisogna reagire piano piano. Ok, allora questo è quello, il senso, quello che ti stavo dicendo, quello che gli ho fatto la modifica, e poi mi dirà Luca come lo senti, mi sembra che l'ho già sentito. Vedi, adesso ho escluso il processore e vediamo un attimino, valuta tu, dai. Ok, adesso col processore, vai Claudio. Va bene Sandro, l'avevo già detto, tu hai il telefono, l'ho già sentito e va bene, bella compressa, la modulazione, bella forte, con una tonalità molto medio-bassa, hai leggermente i medio-alti un pochino più chiusi, ma comunque compensa con la tua modulazione, quindi per me è ottima così, non ci sono problemi. Lo so Sandro, infatti per quello era una battuta per Antonio, ma ho visto lì una bellissima cosa, se fai quell'ampliamento, quegli accorgimenti che sono da fare, caspita, una legge a quel posto, una legge. Ok, avanti, chi vuole riprendere? Luca Falchetto, fate girare per Giuseppe anche a tu. Avanti Giuseppe, compagnia di Sandro a Porto Torres. Vai Giuseppe per Sandro. Via. Buonasera Sandro. E così è poco da dire, c'è. La questione critica è per tutti, se non c'è lavoro bisogna o inventarselo oppure andare dove c'è. Tutto lì il discorso. Ok. Ok, vabbè, purtroppo stiamo attraversando dei periodo molto, molto particolari, quindi cosa si può fare? Si può fare soltanto che ognuno cerca di adattarsi, cerca di mettere fuori proprio le materie prime che ha, diciamo, però non è semplice perché a quanto pare diciamo tutto fermo, tutto e non si sente niente. Speriamo sempre, noi pensiamo sempre nel positivo che tutto ciò diciamo dia una svolta, che tutto ciò dia un segnale positivo, ma comunque vediamo un attimino, tiriamo avanti, logicamente diciamo speriamo in bene, tutto lì. Comunque ciao Giuseppe, ben ascoltato, dai. Via, già. Ma dove sei? Tu a Patatango oppure zona San Giovanni o Sandro? Giuseppe, sono qua la città di Ferro, io la chiamo la città di Ferro, capito? La piazza di Ferro. Via, va bene, dai. Già va bene così, dai. Fai girare, io già sono qua, dai. Fai girare, dai, Sandro. Claudio. Tu ci mi va patattando? Ci sento solo quando sono libero. Ok. Dai Antonio, riprendi. Ehi. No, a me mi è capitato, ho fatto a proposito di Città di Ferro, ho fatto una ristrutturazione lì in una casa di una roccata, se non ricordo anche il nome, lì a Roccatessa, lui arroccato. Signor Murro, non si preoccupi, quando sarà questo mio numero, mi lascia il suo, il telefono più presto possibile. A te telefonato da Grave, altrettanto telefonato a me. E chi si sono visti da Cagni, una volta che le fai il lavoro, poi mi dicono guarda non c'è problema, poi 14 cambi ordinari su per taccarmi il latte. Sì, Sandri, ma è proprio così. diciamo, la crisi è generale, non è solo qua. La crisi è un po' dappertutto. E oggi ti piglia dall'amo, devi abbassare la testa, purtroppo, perché il lavoro non ce n'è. Devi abbassare la testa e cercare di andare avanti, purtroppo è così. Anzi, è un bene quando riesci a trovarlo. Il male è quando non ce n'è per niente proprio. Lo so. Purtroppo il guaio è quello, finché uno riesce, diciamo, a aggrapparsi a qualcosa, ad adattarsi, cercare di tirare avanti, tirare a portare la goccia giusta, giornalmore a casa, la fronte va avanti, capito? Però purtroppo spiragli sono quelli che sono e uno cerca in mille modi, diciamo, di poter andare avanti. È vero. E facciamo girare, dai. Vai Luca e poi fa girare per Giuseppe, vai. Ciao, c'è, vai Giuseppe. Ehi, adesso è cosa devo dire? Adesso speriamo domani o domani o dopo scendere in alto e vedere un po' cosa, che aria tira, già tu mi hai capito dopo, e vedere un po', chiedere informazioni con quella persona là che tu sai, e vedere un po' se questa cosa l'hanno messo in atto oppure o è tutta quanto una fottitura, hai preso? Sì, beh, bisogna avere fiducia in Giuseppe, piano piano vedrai che si mettono a posto le cose. Ehi, vai Claudio. Abbiamo un dottorando per mettersi a posto le cose. Meno male, io sono un tipo che mi sono andato a fare un po' di tutto nella vita, se no, certo, avendo solo un ramo sarei stato legato a monetine, grazie a Dio sono andato sempre a fare determinati lavori, ne ho fatto e diciamo che ho imparato l'arte, ho messo la parte che poteva sempre servire per domani, e così mi sta venendo proprio a puntino. Cosa ci vuoi fare? Io. Che volevo dire? Mi dispiace parlare di queste cose perché non si fine poi. Io lavoro tanto, molta gente è a casa, se ci fosse un po' anche poco per tutti, invece di sacrificarne uno solo, sarei rimasto molto più contento. Ehi, è così, vai Sandro. Ok, vabbè, vai, piano, bisogna un attimino partire, diciamo, con l'atto positivo, diciamo, capito? Senza stare lì, magari uno cercare di demonizzarsi, lo so che non è semplice, è tutto lì. Scusate che mi chiamano. Vabbè, ne approfitto io per farmi una piccola carica. Seguoci da più dopo, se no ovviamente vengono tutti super saltati, tutta la ruota. Io vado a fare un po' di carica. Ok, direttamente tutti saltati, dai. Ciao Claudia, alle migliori, ho aspettato le seguite. Ciao Giuseppe, ciao Sandro, ciao Luca. E ciao anche agli ascoltori. Ok. Via vai, ok, ne approfitto anch'io allora, vai. Ciao Sandrini. Ciao Giuseppe, ciao Luca e chiunque fosse in quelli che si ascolta. Ci sentiamo semmai dopo se coincide, altrimenti un buon inizio settimana per domani a tutti e alle prossime occasioni. Ciao ciao. Ciao Claudio, ciao ciao. Vabbè, stavo in questo momento, comunque vi saluto Claudio e Coso. Falchetto, dai, sono entrato 10 minuti, avete già preso per il momento che stavate uscendo. Comunque ciao. Ciao Robè, è pronta la cena, se vuoi entrare dopo volentieri ci facciamo le chiacchiere, altrimenti ritieniti salutato anche tu, perché sono anche stanco e stavo scrivendo sinistra, stavo facendo Antonio, mi ha chiamato la signora. sei entrato per i saluti. Va bene, e vediamo un po' che è rimasto. Chi c'era? Ho sentito la chiamata a Luca, diceva Luca Giuseppe, avanti Luca, prima e poi Giuseppe, se c'è. Parlo per noi, io saluto lì Roberto, io ti saluto e sto facendo carica. Se ci sei ci ascoltiamo più dopo, se no vedrete tutti super salutati. Ciao. Yeah, ok, buona carica, dai. Ok, vediamo se c'è ancora Luca. Luca ci sei? Sì, sono qua, ciao Roberto. Ciao qua, buona carica, la prossima. Ci non mi chiamano. Ah, stiamo finché, perché anche tu devi mangiare, anche io tra poco andrò. Io, oddio, se non mi chiamano. Sono in misura. Siete in razzi, nei gusti. Tu lavorando stai? Vabbè. Ma niente, non hanno rinnovato. Bene, nulla. O meglio. E vabbè. Aspettiamo. E altre cose non c'è in giro, non c'è niente. No, no, vabbè, nulla. No, tutti mi promettono pure, cosa? Bah, lasciamo perdere, no? Lo so, purtroppo. Chi c'era poi? Ho sentito Giuseppe, avanti Giuseppe, se ci sei, così hanno detto, non ti ho sentito, però hanno detto che c'era anche tu. Ma Roberto, nel centinchio, dai. Ehi, come ricevi con te a questa radio, Roberti? Come ti arrivo a te? Ma di segnale o di radio? Di tutte e due. Ma la radio è abbastanza buona, il segnale se 9 è qualche cosa, dai, 9,5. No, ho tolto quel che avevo in macchina e l'ho messo qua a casa per vedere un po' se scalda anche questa cosa, capito? Perché l'altro mi stava scaldando, non ho capito per quale motivo. No, no, radio 5 è pulita, nessun difetto, niente da dire, va benissimo. Cos'è che baracchino è? E questo è tipo uno di quelli da 13, capito? Però non c'ha mai... No, Patrice. Assomiglia un po', come ti posso dire, al Migra, hai capito? No, no, va bene, ma il microfono è il suo originale o c'è qualche altro microfono? No, io ho un amplificato. Ma sta andando bene, già va bene come radio. Il microfono è, si chiama Tenco. Tenco? IHK. Boh, non ho mai sentito questa marca. Boh, tu Luca, mai sentito? Telecom. Cosa Telecom? Cazzo, Telecom è quella della luce, cazzo. La luce. La luce. Cosa ti intendi? Telecom è... fanno i microfoni. Telecom. Telecom, non Telecom. Telecom. Apprezzo, Tu non ho mai sentito. Dammi qualcosa a me di segnale con quel baracchino, Giuseppe. E sta arrivando segnale di 9. È una radio di 5. Con che antenna mi stai ascoltando? Con la canna da pesca c'hai? Negativo, quella l'ho fatta fuori. Con la mia, quella abbiamo fatto con Alessio. Quella del Vuocai e l'abbiamo trasformata a 27. Oh, già va bene. Stazionaria come sei messo? L'hai controllata? Stazionaria, l'ultima volta che l'ha controllata era 1 e 2, hai capito? Già va bene, non c'è problema. A te Luca come ti arriva Giuseppe? 9 più 20 è quasi. Sì, sì. Però sta andando bene. È bella anche frullante la radio, è migliorato secondo me come modulazione. Vabbè, Roberti, cosa ci dici di tanto bello? Io già ti devo dire, oggi finalmente ho visto una giornata stupenda, sono andato a giocare con i ragazzi stamattina presto, ne sono tornato a pranzo, a Pattara, una bellissima giornata abbiamo trovato, bellissima. Poi stasera non sono uscito a chiedere il fracco, perché sono rimasto a casa. Mi adesso ho acceso il baracchino, stavo facendo altre cose qua in casa, adesso ho acceso, invece se c'è qualcuno, ho sentito nel frattempo che è andato via Claudio e Falchetto, mi hanno detto ce l'avete tu e Luca, invece a vedere. Ci vediamo un pochettino di cosa si può parlare. Ok, riprendi Giuseppe, fa girare. Cosa vuoi parlare? Noi stiamo parlando più del meno del lavoro, della crisi che c'è, tutto quanto, e dunque è così. Il problema qua adesso, non so come cazzo va a finire, sperando che domani mi diano una risposta di positiva, oppure domani, dopodomani, vediamo un po', passo giù all'ufficio di collocamento per vedere un po' cosa, di quelle tre domande che ho fatto, vedere cosa cazzo, se una di queste è positiva, capito? Ma cos'è il tuo mestiere? Cosa sei di mestiere? Un muratore? No, diciamo che il mio mestiere, di quale professione è barista, capito? E dunque però mi adeguo, capito, faccio di tutto. Come aiutante manovale, aiutante giardiniere, quello che c'è da fare faccio, capito, Robertino? Oh, Giuseppe. Oui. C'è un whisky e coca lì, forse mi trovo manuale perché è un manichino, guarda. Un manichino? Ecco, ha trovato a passeri? Manichino? Uno è come fa a passeri, ma i campani, anche manichino. Per carità. Ma ciao, amico. Sì, arrivi due. E chi è questo? Ah, buh, che macco, Vabbè, non gli fa niente a Leoncino. Avanti, Giuseppe. Non gli fa niente? No, no, vabbè, un po' lo disturba, però già lo passi. Prova, Leoncino. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Sì, che lo passi, non di molto, però lo passi. La radio è forte, cos'è? Musica da stare, se la cantante. Musica da Parigi, ma la passo la portante. Come? Ma la passo la portante. Cacchio, se non la passi tu ci dobbiamo preoccupare, no? La passa anche Leoncino, questo segnale è intorno ai 9, lui è 9.5, 9.10. Ma è dove la zona tua, lui? Qua è 9.20 quasi. No, io la passa qua. Qui è 9.20, poi un guardo è positivo. Tu la schiacci, non esiste. E tu come ti chiedi buoni a fianco a casa mia, amico? Luca, non c'è problema, arrivi talmente forte qua, non c'è problema. Questo è intorno al 9 il segnale, è perché è forte la radio, nel senso, se no magari neanche avrebbe fastidio neanche un po' all'uncino. Ti devi mettere la niente. Avanti, Giuseppe. Via, beh, robe, se la gente qua non rompe le scatole in frequenza, non è contenta, giusto, può essere solo un handicappato che si nasconde dietro un apparato e solo così può fare le cose. Ma io manco per anticamera me ne passa. Io se devo sentire, sento, se voglio parlare parlo, se no io lo sai cosa faccio, prendo, studio tutto e ce l'ho bisogno lui nella portante, capito? E dall'abbia si dice uno. A noi non ci fa niente a me, a Luca. A voi la passate alla grande. Ma no, Luca. Ma cos'è, ma basta. Guarda, io aspettami. Però, no, attimo un attimo, come ti arrivo adesso? Ciao. Qualche qua handicappato deve essere questo qua, cazzo. Boh, qua. Ma io avrei capito la cosa. Se vuoi mettere la portante. Metti, cazzo, con una musica discreta, cazzo, bella per sentire tutti quanti, ma cazzo, ma così, cazzo, mi pare sia la musica di nonno, cazzo, quando la sentiva nonno, cazzo. Devo dire una cosa, se non ricordo più. Comunque, adesso non ho niente da fare e rompere le palle qua. Da, una cosa ti volevo chiedere. Dimmi. Quell'affare, quell'oggetto che avevamo preso da fuori, ti ricordi? E ancora ce l'hai? Via, sempre. Come? Via. Ma sempre andando tutto a posto, nessun problema. L'ho sentito l'altro giorno, mi ha quel tipo che l'avevamo acquistato. Va bene. No, perché sono cambiato la batteria al ricevitore all'ICOM, l'ICR7000. Lo ciambada non funzionava più, cioè non funzionava, certo, cioè, funzionava come prima, non è cambiato niente, non mi teneva le memorie. Ho detto, ma cosa è successo? Ho detto, cambia la batteria, non teneva le memorie. Allora, per quanto, siccome è un tecnico, detto, guarda che con l'apparato c'ha un interruttore dietro, che è sempre per tenere le memorie o per cancellarle quando lo spegni. Infatti era così e tutto a posto. Druda, è sentita. Se non c'è anche quando arriva questa niente. No. Vabbè. Saluto con sovramodulato, cosa hai detto? Ma non c'è niente da fare. Allora c'è con Luci, quando arriva te il segnale? Il segnale tu arrivi a 9, 9 qualcosa, 9 con la radio di 5, capito? Non io no, quello la musica. E 9.20 qua arriva, capito? quindi mi passa a me con la musica. No, non credo che ti passi, ma a volte canto come è, però non riesco a sentirti, e a volte sì, hai capito? Se arrivano 20, arrivano 9, io sicuramente mi schiaccia. E a Luca lo passa, cioè entra lo stesso su Luca? No, a Luca no, a Luca lo sento bene io, hai capito? No, vuol dire che è verso giù allora. Tu dove sei? Zona, sei verso San Giovanni, con le zone lì sei tu? No, io sono qua alla fine della Valdetta, Robè. Robè, io ho una mortenza. Tranquillo, aspetta. Ok. Io ho una mortenza. Ah, lo credo, tu sei molto vicino. Io pensavo che lui fosse zona San Giovanni, San Giorgio, quelle zone lì. Ah, no, via Valdetta è dove? Montefuro, quella zona lì. Ah, già sta andando bene. Ma la terra è molto alta, Giuseppe. Pagato, hai già fatto un coso del baracchino, la cassa pagata. Più stasera gli ho aggiunto un'altra cosa. Aspetta. C'erano 2,5 metri, 3 massimo, dai, di altezza, capito? Io a me sta dicendo se ho pagato la tassa lui. Sì, 12 euro, l'altro giorno, la settimana scorsa l'ho fatto. Non posso vedere più cazzo. Perché adesso, come si dice, se non appaghi scade, devi fatto a nuovo dopo. Luca, mi puoi chiamare al telefono di casa? Posso chiamare al telefono di casa? Sì. Yeah. Aspetta. Vabbè Luca, non è proprio così, dopo te lo dico. Tu Giuseppe, fatta la concessione. Che ce l'ho qua, io ce l'ho, ce l'ho qua, io come ho messo le due baracchine, ho messo, capito, per casa e per le macchine. Dunque, sempre quella cifra lì, 12 euro, ho fatto i versamenti e ho spedito tutto quanto a Cagliari. Io ho messo di lampade, tanto. Per quello che, non lo so, secondo me queste sono tasse inutili, cioè non servono a niente. Loro dicono serve per eventuali controlli, per pagare gli stipendi a queste persone che fanno i controlli, ma cosa? Sono di là lampate. Non lo so Lu, guarda, per me te lo dico in verticale, poi se quando avremo modo di vederci, per me non lo so. Conviene farla, poi vedi tu, allora Lu, a me adesso non mi sono mai venuto a controllarmi niente, capito? Però, mai dire mai, cazzo, mettiamoci, tocchiamoci sotto perché non sa mai, capito? No, ma diciamo, a casa è un po' improbabile che vengano a cercare, a meno che non ci sia qualche denuncia, qualcuno che dai fastidio a qualcuno. Però è bene averla, io vabbè l'ho sempre fatta, bene averla se sei in macchina, se c'è macchina in macchina la prima cosa che ti chiedono è la concessione. Però a casa, a meno che non vengono affittati, a trovarti il segnale, se no come fanno a sapere che sei tu che stai modulando? Beh, giustamente, e se non c'è qualcosa sotto piazzato, capito? E loro se ne accorgono da quello, capito? Se stai andando, sei tranquillo, se non c'è niente, se stai uscendo liscio e tutto quanto. Sì, sì, ma devi dare fastidio a qualcuno, c'è cioè una denuncia per andare a cercarti a casa. Se ti comporti bene non dai fastidio a nessuno, non ne mai passa manco minimamente di venire a te a fare qualcosa. Per me, guarda, poi altro dirò in verticale se avremo modo di vederci e poi ti spiegherò perché, hai capito? Adesso facciamo una chiamata generale sul 10, attenzione canale 10, chi vuole entrare con la buonasera in compagnia di Roberto, di Luca e di Giuseppe. Vediamo un po' se qualcuno vuole entrare, avanti. Ma non ho più sentito a cosa, a Giulio Dollaro, lo conosci Giulio? Sì che lo conosco, quello di Ripunti. Lui abita a Ripunti, il laboratorio c'era, diciamo, non proprio esattamente nella zona del monte, diciamo, così non diamo troppi particolari. No, sono da molto che non lo sento. Abbiamo fatto gli auguri per telefono, via messaggini, però poi proprio in radio sono da molto. Peccato, ci avrebbe fatto piacere. Io sono da molto senza sentirlo, dalla vigilia di Natale sono senza sentirlo. Perché capitava qualche sabato sera, qualche domenica sera, diciamo durante la settimana raramente, però di sabato e domenica molte volte l'ho sentito, è capitato, ma non l'ho più sentito. Così altre persone che non si sa che fine abbiano fatto in frequenza. Non lo so, Robè. qua la gente entra ma non entra, capito? Non è che il baracchino sia un coso come... Il baracchino ha fatto ciò per parlare, fare quattro chiacchiere con le amici e un po' di distramento, capito? Di coso. Dunque, è quello lì il discorso. Non so, è fatto quello per fare due chiacchiere e dare qualche così... di cosa, cambiare un po' aria, diciamo, tirarti via dalla solita monotonia, trovare qualche persona, perché la maggior parte delle persone, molti magari neanche le conosci, perché a te ti conosco qua in radio, però magari ci conosciamo pure di persona, però non, la maggior parte non so neanche chi sia, a parte togliendo le due o tre persone tipo Luca, Claudio e qualche altro, ma ci sono molte persone qua che parlano in radio, non so come ancora sia, ci conosciamo, ci siamo sentiti tante volte. Sì, vabbè, lo sai che io ti dico solo un paio particolari che mi conoscerai senz'altro tu a me, cioè io ti dico che per 31 anni avevo il locale giù alla stazione, ti ho già detto tutto quanto. Ma vabbè, diciamo noi che ci bastichiamo, quello ne sarà capitato, magari ti avrò visto qualche volta, però non ti è presente, io non è che in quella zona ci capitasse più di tanto, sarà capitato ma raramente. Vabbè, qualche volta con gli amici prenditi, va bene, tu lo so che non fumi e smesso, qualche volta con gli amici va a prendersi le sigarette, io andiamo giù alla stazione, dico, bomba, la domenica, hai capito? Sì, sicuramente è capitato. Così Antonello, lui mi conosce a me, ma se lo vedo, lui sa cosa faccio, dove abito, eccetera, eccetera, Antonello Pompugno. Però non ce l'ho presente, ma se lo vede mi dice, mi sono io, a quel punto di qui non sa più gare, e lui dice mi conosce da un sacco di anni. Ma con Antonello non c'è problema, noi ci conosciamo, diciamo che con Antonello siamo quasi nati assieme, capito? Perché lui abitava lì, quella zona lì, via Maddalena, quella zona lì, capito? San Capolinare, quella zona lì. E dunque veniva alla stazione e tutto quanto, con Antonello siamo quasi cresciuti assieme, capito? Ok, vediamo se è rientrato Luca. Luca ci sei? Misba, non è rientrato. Come si chiama? Ma tu hai sempre trasmesso la casa tua da questa zona, abitavi in un'altra parte ultimamente? Cioè hai trasmesso anche da altre parti? O le macchine avevano molto che ci sentivamo? No, io avevo la campagna giù a Coso, a Rena del Sole. Trasmettevo, allora il periodo c'era cosa, ti posso dire dei nomi, c'era Antonio Cavasacchi, c'era la buona anima di Toreara, che ora è Cocio, quello che è morto, hai capito, che era vicepresidente del SER, giù a Brotone, c'era scritto lì, poi cosa ti posso dire, c'era Claudio, c'era un po' di gente, hai capito. No, io parlo di recente, ci sono da poco in frequenza, ci sarò 5 anni, non di più. Parlo di recente, quando ti sentivamo eri in macchina, c'era anche in macchina il baracchino. Sì, ero in macchina, ce l'avevo solo in macchina, dunque, ma adesso, grazie a Dio, abbiamo piazzato qua a casa tutto quanto, per adesso andiamo avanti così, poi più là, quando avremo qualcosa di concreto, faremo la stazione o io come era prima, capito? Che prima io giù in campagna avevo la Mantova 5, capito? E uscivo con un baracchino, con il valvolare, capito? Dunque, per dargli un po' di cosa, avevo un'altra cosa all'amministrazione di corrente che lo stesso che ti staccava la luce, dunque quello lì poi non ho più avuto e ciccia. Cappa, chi? E vabbè, piano piano le cose si fanno, anche io ero entrato da una fesseria, poi piano piano mi sono allargato un po' di più, dai. Non dico che sia una cosa eccezionale, ma discreta, una stazione discreta, dai. Di meglio, ma c'è anche molto peggio. Cazzo, senti meglio tutto quanto, senti più bene gli amici, su, prendi freddo, soprattutto, io quando vengo in macchina, tanto c'era un freddo, c'era un cavo di riscaldamento, in macchina c'era da cagarsi, dunque è tutto lì. No, vediamo, diciamo, tutto si fa piano piano. Ok, vediamo un po' se è rientrato Luca. Luca, ci sei? Ti arrivo 9 dalle parti tue, ma là c'era anche una bombacina, tu forse perché non hai la mantova, per quel motivo lì, perché con le zone lì normalmente sono intorno alle 9:15, arrivo, di abitare nella zona tua, diciamo. Sì, ci ho detto il palo è un metro e mezzo, 2 metri massimo, là, più l'antenna, capito, con un altro paletto, di altre un metro, in tutte 3 metri di palo, capito. Ma non la puoi mettere la mantova di lì su voi? Sì, io dovrei metterla la mantova, però devo metterla sul tetto, capito? Devo aspettare che mi danno l'ok per una questione che sono, diciamo, in coso per tramite tribunale, capito? Io ho denunciato il capocondono perché questo qua mi ha detto che io non potevo far piazzare l'antenna per il CB e dunque ho detto questa è da vedere, io adesso ti porto tutto quanto la questione che mi hanno dato e le regole e tutto quanto e poi te lo faccio vedere io. Sono andato in via legale, ho consegnato tutto quanto in mano all'avvocato e adesso a giorni dovrebbe essere, penso sia il 23-24 di gennaio l'udienza, capito? Diritto di antenna te lo permette la legge, cosa te deve essere tutto a posto, tutti gli impianti a regola l'arte, eccetera, eccetera. Ma questo è con il capocondomino o il padrone di casa? Ciao Roberto! Sì, dimmelo. Ma ci sei su Facebook tu? No, perché? No, niente, sto cercando che non ti trovo. Sono tanti, Roberto, capito, il tuo cognome, tanti, ma tu ci sei. Ma c'è mia figlia, mia moglie, ma non me l'ha fatto a me di cose. Oh, ma come tu o sei tu? Ma io non è cognome mio, allora. C'è anche Claudio, da poco. Ma Claudio, quello è suo? Allora, però devi mettere prima, vabbè, perché era un altro prima, solo che non arrivava alle mail di conferma per far sì che si riapra la pagina di Facebook, no? Però l'abbiamo cambiato, abbiamo messo le mail di cose, abbiamo cambiato nome e cognome, cioè al contrario, invece di mettere il nome prima, abbiamo messo il cognome prima. Abbiamo messo un'altra email, perché non arrivava alle mail di conferma su MSN, adesso l'ho a posto, che sono più amici di me! Lo so, e lì la migliora mia moglie, nel senso, la mia conosce, vabbè, loro danno amicizia a mia figlia, tutti i compagni di cura, amici, eccetera. Non è che mi piace molto a me quella situazione lì, ho visto cose un po' bruttine, non lascia perdere. Ah, vabbè, mi dice male, no? In base a quello che metti, cioè in base alla persona che metti, poi devi valutare, capito? Sì, sì, sicuramente, però io conosco famiglie che sono andate a finire in mare, 2 famiglie, amicissime, tranquille, lì si è sciappato l'amico e si è sottratto a pulire un pari, ha mollato la famiglia, un'amica, una ragazza che conosco. Ehi, vabbè, dico, non mica tutti lo fanno, non dire, sto qua, questa qua, chi è, non mi interessa sapere chi è. Vuol dire che è stata molto debole, capito? Vabbè, dai, sono al telefono, ripeti Giuseppe. Giuseppe, ci sei? Chi è rimasto sul 10? Arrivate, Robe. Dimmi Giuseppe. Però la macchina che vado a prendermi le sigarette lì a Coglio, dopo riprendo la macchina, dai. Anche io un paio di minuti però devo chiudere perché mi hanno quasi avvisato che è pronto. Va bene, fai carica, dimmi se coincide, sentiamo più tardi oppure domani, dai. Magari domani, dai. Manco un paio di minuti acceso, se è rientrato Luca, sennò poi ci sentiamo. Ciao Giuseppe, ci sentiamo. Ciao, buona carica e buon tutto, dai.